Attento, Gio Maria! Ah, vecchiaia e caretina! Ebbene, tutto bene? Bene, bene, e tu bene? Gappa, adesso fa chiamata per se c'è qualcuno. Ebbene, il mio è sempre acceso. Gappa, ma sta entrando nessuno? Ancora, poco fa c'era uno che ha fischiato un paio di volte. Ho detto avanti e non è entrato. Beh. Un paio di infine. E allora, è facile. Beh. È passata la parte e si è andato. Io mi avevo detto, esci a provare a vedere se funziona ancora il tuo. Adesso provo a chiamare a Gio Maria, perché mi avevi detto che... fino a 8 ceri, mi avevi detto. Infatti, no, io... dalle 4 in poi accendo uno e l'altro, capito? E per cui ci sono quasi... salvo qualche volta manco, magari non ci sono uscito, ma se no è sempre acceso, sia la mattina fino alla una e dalle 4 e poi fino alle 8 la sera, capito? E in che danno per più nessuno? Fra poco entra l'attore Squalo e poi entra anche Bacchisio, Marino e qualche altro ogni tanto là. Gappa, no, detto là. 27, qualcuno, ma sempre su 23, e in altri canali non c'è nessuno, in Sassari non c'è nessuno, su 10 non c'è più nessuno, si vede che hanno disertato anche loro. Sta capusoso, via. Va bene, dai, adesso esco perché devo andare come la signora. Ho voluto provare a vedere se c'è qualcuno che ci rifiuta. Ehi, io sono sempre qua, a quest'ora mi trovi sempre a me, capito? Tanto sono a casa e così che l'accendo, qualcuno chiama, abbaierà, ecco come hai fatto tu adesso, vedi? Così che io sono sempre qua, quando vuoi entrare a quest'ora io ci siamo sempre, dai. E caparoggio, dai. Ciao. Ok, ciao, buon proseguimento. Tore.